Egli parla di se stesso in un lugubre monotonio. Io fiorisco i versi di altre altitudini, le esterne noie, elucubrazioni, automobili che mi prese oggi nella fine polvere di un pomeriggio piovoso. Sotto la tenda il pesce canta sotto il cuore, più puro canta la libera melodia dell'odio, la vendetta salata, l'ingegno assopito, le rime denunciatorie saranno i miei più assidui lettori, creatori sotto la ribelle speme di disuguali incantamenti si farà la tua lagnanza a me che pronta sarò a riceverti con tutte le dovute intelligenze col nemico, come lo è la macchina troppo leggera per tutte le violenze. Allora sarà tempo tu ed io ci ritiriamo nelle nostre tende e ritmicamente allora tu opporrai il tuo piede contro il mio avambraccio e tenuamente io forse ti spalmerò del mio sorriso appena intelligibile se tu lo sai carpire, ma se tu sai solo banchettare, fischiare al becco del vino e dell'ambiziosa più severa perfino di questo mio anelare verso la tua più severa parte. Allora distenditi solo fra le tue pianeti. Non so se io sì o no mi morirò di fame e paura, gli occhi troppo aperti per miracolosamente mangiare la terra che ravvolge e sostiene l'acqua troppo nera per la leggerezza del cielo. Che strano questo mio riso da pipistrello, che strano questo mio farneticare senza orecchie, che strano questo mio farneticare senza augelli, che strano questo mio amare le amare ozie della vita.